E allora di nuovo in diretta giungono purtroppo brutte notizie. Dopo uno sgombero di un campo rom lunedì a Casa Albertone, prosegue questa azione di forza da parte delle autorità pubbliche, perché questa mattina è in corso un nuovo sgombero, questa volta a Centocelle. Dunque noi abbiamo al telefono Gianluca Staderini di Popica Onlus e con lui cerchiamo di fare il punto su questa ennesima trovata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e tutte. Noi siamo qua davanti a questo campo, chiamato, che loro chiamano abusivo informale. Dove si trova precisamente? Di Romolo, che sta a Centocelle. Sì. E ci sono all'interno diverse famiglie, alcune sono scappate vedendo arrivare la polizia, ne sono rimaste tante, ci sono circa 40 bambini. Ora non abbiamo numeri esatti perché siamo comunque tenuti fuori da un grosso spiegamento delle forze dell'ordine che è presente e che sta seguendo lo sgombero. I rom sono in questo momento all'interno, lo sgombero dovrebbe essere iniziato questa mattina verso le 8:30-9:00. E, appunto, i rom sono all'interno, non vengono lasciati uscire. Sappiamo che c'è la sala operativa sociale del comune all'interno che sta, dice, cercando una soluzione. Per ora si sta semplicemente aspettando. Come ricordavi prima tu, fa il paio con quello con lo sgombero di due giorni fa. In realtà è quello che ci si poteva aspettare dalle dichiarazioni del sindaco Marino, che a inizio gennaio ha detto che nessun campo verrà illegale, insomma informale, verrà più tollerato e verranno sgomberati, cioè dichiarazioni copiate pari da Alemanno. Sì, da questo punto di vista insomma la continuità appare piuttosto netta. Senti, ti chiediamo peraltro anche perché sapevo che nel corso di queste ore era ancora in piedi la situazione che si è sviluppata a seguito dello sgombero a Casa Albertone davanti proprio al Dipartimento delle Politiche Sociali, insomma, in Viale Manzoni. Sì, la situazione in Casa Albertone era un po' diversa perché i rom in quella situazione erano all'interno di un'occupazione che era avvenuta durante lo tsunami tour, quindi non erano proprio di un campo e quindi si erano auto-organizzati ed erano andati all'assessorato alle politiche sociali occupandone l'ingresso, e dopo 12 ore di trattativa nella notte, cioè alle 11:30 di sera più o meno, era arrivata finalmente la soluzione, nel senso che il comune di Roma aveva aperto l'ennesimo centro, l'ennesimo residence per far entrare queste famiglie che appunto sono state fatte entrare lì e sono in questo momento lì, ovviamente con l'ennesima spesa inutile da parte del comune, soldi che vanno alle solite cooperative dell'arciconfraternita che gestiscono questa accoglienza, inutili perché stavano in una condizione precedentemente dove erano state sgombrate assolutamente positiva, perché erano stabili delle Ferrovie dello Stato disabitato da anni e loro avevano rimesso a posto e che ora le Ferrovie dello Stato si sono ripresi con la loro polizia, e oggi arriva questo nonostante l'assessorato delle politiche sociali l'altro giorno avesse detto che loro non c'entravano nulla. Esatto. Quest'altro sgombero fa il paio con quello di due giorni fa, sentendo le dichiarazioni di Marino, insomma, i sospetti che ci sia un mandante, una mano dietro questo, ora sono abbastanza evidenti. Senti, quindi la situazione è di attesa al momento? La situazione è di attesa, il campo è dentro, si appoggia su una struttura abbandonata praticamente, anche questa da anni, di cui pare che ci sia un proprietario che rivendica la propria proprietà, dovrebbe spiegare perché ci sta questi ruderi decadenti. Il campo si era sviluppato intorno a questo e in mezzo al campo appunto ci sta questo distaccamento con questi edifici, con le baracche, circondato dalla polizia, e noi siamo all'esterno e poi c'è anche sulla strada, ci sono anche agenti della Digos che stanno controllando cosa avviene. Va bene, allora Gianluca, noi ti ringraziamo per queste preziose informazioni e nella misura in cui la vicenda si evolve, magari ecco, daccene notizia in modo tale da poter... Perfetto, va benissimo. Grazie, a grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Take a break.